Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, è domenica 18 maggio 2014, la 179esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per le selezioni musicali Lorenzo Ranfagni e Giona Vinti. Iniziamo il nostro viaggio di oggi nel vivere, pensare e agire cruelty free con la storia vera di Shrek, una pecora neozelandese diventata celebre per essere riuscita per anni e anni a sottrarsi alla tosatura. Per la rubrica di attualità animalista e un po' bestiale ci occupiamo del gruppo Facebook 21 giorni nell'Eden con Eva and Friends. Eva è un'agitatrice sociale che ha scelto la cucina per costruire il mondo che sogna. Un mondo ovviamente tutto cruelty free. Scopriremo com'è nata questa iniziativa, in cosa consiste e il segreto del suo successo su Facebook. Per la rubrica Il pasto gentile, torniamo sul progetto Facebook 21 giorni nell'Eden e intervistiamo la vincitrice di una delle più simpatiche gare di cucina. La migliore ricetta non vegan che è stata veganizzata. Sarà con noi Paola Allievi, una delle tre vincitrici, e ci dimostrerà che in poche semplici mosse è possibile sfornare golosi, grassi e untissimi chocolate chips cookies, 100% cruelty free. Nella nostra rubrica letteraria Perle agli umani, Lorenzo Guadagnucci recensirà per noi un testo di Élisée Reclus, pensatore, geografo, vegetariano e antimilitarista della seconda metà dell'Ottocento. Per chiudere, Valentina Reggioli ha curato le news della settimana. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. È diventata un simbolo, una testimonial di alcuni tipi di lana, un'eroina e persino la protagonista di fiabe per bambini. È diventata, come si suol dire nell'ambito dello spettacolo, una vera e propria star. Ma come potrete immaginare, non si tratta di un'attrice o di una cantante, ma di Shrek, una pecora merino diventata famosa in Nuova Zelanda e conosciuta alle cronache di tutto il mondo come la pecora ribelle. La sua storia è davvero dell'incredibile. Alcuni anni fa Shrek, che all'epoca aveva all'incirca 10 anni, con ogni probabilità è diventata insofferente alla pratica della tosatura annuale e fuggì dalla fattoria, e dell'animale si persero le tracce per diversi anni, 7 per la precisione. Durante questo lungo periodo la pecora si nascose, forse non troppo lontano dalla fattoria d'origine, e visse da eremita in alcune grotte della South Island. Venne ritrovata in una di queste grotte, ma non fu subito semplice riconoscerla. Aveva infatti quasi sembianze mitologiche. Sottraendosi alla tosatura per così tanto tempo, aveva accumulato una massa di lana di ben 27 kg, il che le aveva conferito un aspetto alquanto singolare. La pace e la conquista della libertà di Shrek svanirono quel giorno. Poco dopo il suo incredibile ritrovamento, la pecora venne tosata in diretta televisiva davanti a milioni di spettatori. In un paese come la Nuova Zelanda, dove le pecore sono più numerose degli umani, Shrek aveva scatenato l'ammirazione e l'immaginazione della popolazione. La sua storia fu accolta con enorme curiosità e la trasmissione fece un boom di ascolti. L'ascesa mediatica di Shrek avvenne in maniera lampo, divenne la celebrità del paese, diventò testimonial per alcuni marchi di lana pregiata e protagonista di diverse manifestazioni di beneficenza. E come se non bastasse, venne persino ricevuta dall'allora presidente del consiglio della Nuova Zelanda. Shrek era malata da alcune settimane e i suoi proprietari decisero per la sua eutanasia. Venne organizzato un funerale che, secondo i suoi proprietari, era degno della sua fama, quasi fosse un eroe nazionale, e dispersero poi le ceneri sul monte più alto della Nuova Zelanda. Questa è la storia di Shrek, da pecora, da animale da tosatura, da animale libero, da testimonial, da simbolo, da mito, a polvere. Quello che l'uomo ha scelto che Shrek dovesse essere. Credo che la storia di Shrek colpisca per un sacco di motivi. Uno di questi potrebbe essere il fatto che di loro, delle pecore, non conosciamo pressoché nulla, mentre la loro iconografia risulta scritta solamente in miseri stereotipi o in facili proverbi. In realtà una pecora non ha mai avuto permesso la possibilità di mostrare le proprie competenze o di mostrare come si organizza socialmente. Le domande finora rivolte hanno lasciato loro come unica possibilità quella di testimoniare del comportamento materno, di quello che mangiano oppure di quanto si riproducono, visto che i loro cuccioli, il loro latte e la loro lana ci interessano esclusivamente come cibo e come abbigliamento. A difesa di Shrek e di tutte le pecore, possiamo aggiungere un ulteriore commento, quello sulle modalità utilizzate nei vari campi di ricerca, nei metodi di osservazione di studiosi, etologi e scienziati, quando cercano di conoscere le caratteristiche sociali di un determinato gruppo di animali. A partire da quelle sui primati, queste modalità si sono concentrate quasi prevalentemente sul fenomeno della dominanza. Gli individui maschi sono stati i protagonisti incontrastati della maggior parte di queste osservazioni, gli attori principali di tutte le storie, relegando le femmine al ruolo di comparse, limitandone il significato femminile a quello di madre devota e di risorsa per l'azione dei maschi e attribuendo loro solo un ruolo passivo nella costruzione del sociale. Di questa idea lungamente condivisa, che i maschi sono competitivi, le femmine timide, dalla pecora al lupo, passando per gli uccelli, sono stati vittima quasi tutti gli animali organizzati socialmente. In contrasto a questo stato di cose, non da molto, si è fatto allora osservare che la passività delle femmine poteva anche essere il risultato di un altro tipo di atteggiamento da parte dei ricercatori sul campo, forse più difficile da scoprire ma altrettanto rivelatore, quello che consiste nel non prestare semplicemente attenzione a ciò che le femmine fanno. Di recente quindi numerosi studiosi, in maggioranza donne, per lo più femministe, stanno avanzando proposte per un cambiamento di prospettiva, interrogando l'intero sistema scientifico a partire dalla domanda che potrebbe essere quella centrale. La dominanza è un problema nostro o è ciò che davvero conta per un animale? E se non lo è, cosa conta allora davvero per lui o per lei? Queste domande, sottese a un cambiamento di valutazione, ha stimolato diversi studiosi e studiose e ha già modificato radicalmente il punto di vista sui maschi, mentre il fatto di interessarsi delle femmine ha completamente ristrutturato il campo delle storie possibili. Sotto questa nuova prospettiva, forse anche la storia di un'altra pecora divenuta celebre suo malgrado, Dolly, la prima pecora clonata nel 1996, avrebbe potuto essere un racconto diverso. Ma anche a lei non si sono date molte possibilità in più rispetto a tutte le altre pecore stipate negli allevamenti, dove tra l'altro il tempo concesso loro non è neanche sufficiente a creare dei legami. A questo si aggiunga il fatto che molto spesso le pecore sono anche oggetto di una selezione che deriva dal tipo di domesticazione cui sono sottoposte. In un gregge una pecora più intelligente o coraggiosa, più furba, costituisce spesso una fonte di fastidio e quindi sarà presto eliminata. Del resto si sa che cosa ci si aspetta da loro, che si comportino come delle pecore, e cioè che siano stupide, timide, remissive, così che le greggi non saranno troppo difficili da custodire o da governare. Anche per questo la storia di Shrek appare rilevante e significativa. Lei riesce a buttare all'aria gli stereotipi, esce dal gregge, rompe gli schemi, dimostra che sa autodeterminare la propria vita, che sa nascondersi, e infatti si nasconde, come in una sorta di eremitaggio che dura ben 7 anni e senza tosature imposte, alla fine del quale viene ritrovata curiosamente somigliante a quei vecchi eremiti di cui si ha notizia ogni tanto e la cui immagine li ritrae completamente riconoscibili con barba e capelli lunghi fino ai piedi. Nel caso di Shrek, la cultura e i media antropocentrici non potevano di certo farsi scappare questa storia, per poterla quindi ricondurre nei binari dell'eccezionalità, riconfermando implicitamente la regola, e così Shrek viene esibita e umiliata in diretta TV mentre viene tosata per l'ultima volta, un po' come si tosano a zero gli individui che devono essere irregimentati, imprigionati o condannati. Ma forse Shrek era una pecora che aveva in sé un po' di spirito Maori e sarebbe bello immaginare un altro finale per la sua storia, che potrebbe essere questo. Dopo la sua cattura, davanti agli occhi esterrefatti dei presenti e delle migliaia di persone che guardavano la tosatura in diretta TV, apparve la pelle rasata di Shrek completamente disegnata da tatuaggi per tutto il corpo. Tatuaggi che, ad una lettura sapiente, avrebbero saputo raccontare della sua vita, dei suoi antenati, della sua innumerevole prole e infine del suo coraggio e della sua caparbia ribellione. E allora, ci piace ancora immaginare, in quel preciso momento, in suo onore, la forza di una danza rituale Maori incominciò a far tremare tutto il paese. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Siamo alla seconda edizione dell'esperienza 21 giorni nell'Eden con Eva and Friends. Si tratta di un gruppo Facebook che per 21 giorni, a partire dal 1 maggio 2014, sta mettendo nel piatto la rivoluzione etica, ecologica e salutistica. Grazie alla sua ideatrice, Aida Vittoria Eltanin, quasi 6.000 persone onnivore o vegetariane o vegane da poco tempo stanno imparando tantissime ricette, stanno cucinando, fotografando i loro piatti, ma soprattutto stanno imparando tantissimo l'una dall'altra, in modo assolutamente orizzontale. I 21 giorni sono ancora in corso, anche se si stanno ormai avviando a conclusione. Facciamo un bilancio con la geniale ideatrice di questa avventura, appunto Aida Vittoria Eltanin. Non sono sola, ci tengo a sottolinearlo, questo è veramente un progetto dove l'unione fa la forza. Siamo esattamente 5.730, tutte queste persone vogliono cercare per 21 giorni di mangiare senza cibi animali e io e queste appunto amiche, che sono fondamentalmente delle blogger vegane tra le più famose in Italia, c'è per esempio Camiria del blog Una Vina nel Piatto, Alice del blog Viola Mirtillo, Barbara del sito Ravanello Curioso, insomma tutte queste ragazze, queste blogger, queste chef si sono messe a disposizione insieme a me per aiutare, dare ricette, dare consigli, aiutare queste persone a capire cosa mangiare in modo semplice e vegano. La tua motivazione profonda, io so che ha solide basi animaliste, è così? Assolutamente sì, perché tantissime persone stanno capendo l'importanza di passare a una dieta vegana o a base vegetale il più possibile, sia dal punto di vista etico sia per motivi salutistici, ma non sanno a volte come, oppure hanno bisogno di quella spinta per cominciare, hanno bisogno di qualcuno che li aiuti, hanno bisogno dell'amica per farlo in compagnia e provarci con qualcuno che le possa sempre rispondere alla domanda, il dubbio, e questo gruppo è perfetto perché c'è sintonia, ci si aiuta tutti quanti, non sono solo io, e quindi è come davvero avere una grande famiglia che ti stimola e ti aiuta, e allora si parte più volentieri, qualcuno magari tentennava e invece con il gruppo dice ok, ci provo, da domani parto. Ogni giorno viene postato un menù molto semplice, vegano, dalla colazione alla cena, e chi vuole lo segue, ha tutte le ricette per capire come metterlo in atto, e poi da lì qualcuna può provare quello che vuole, fare dell'altro, ma sempre provando per cucinare vegano. Proseguendo assieme alle ricette c'è anche una pagina densa di informazioni, a volte sono toste però necessarie. Tante persone entrano per motivi di salute, per motivi di curiosità, per semplicemente per imparare nuove ricette, allora ogni giorno presento dei PDF con la foto di un animale che stanno salvando e un link che mostra come vengono trattati questi animali, cosa succede loro. Poi abbiamo anche inserito informazioni su, per esempio, i cibi animali, come fanno a diventare così, tra virgolette, gustosi. E si vedono questi video dove ai cibi animali vengono aggiunti enormi quantità di sale, di spezie e sapori vegetali, e questo li rende buoni, ed è importante che ci rendiamo conto che la bontà dei cibi animali viene data spesso dal sale e dai cibi vegetali che vengono usati. Poi dai anche una carezza alla voglia di giocare delle persone, perché c'è anche una bellissima sfida alla settimana, raccontaci di questo. L'idea del gioco è proprio parte della mia natura, e cercare di rendere allegro anche il gruppo, quindi ci sono dei giochi, ci sono delle sfide, bisogna provare a postare la foto che è più tentatrice. La sfida di questa settimana è fare un tiramisù vegano, oppure il gelato alle creme, ecco sì, piccoli giochi che rendono divertente il cammino, perché poi è divertente, è bello, è buono passare questa dieta, è tutto fuorché un peso, e con questi 21 giorni credo si capisca molto bene. Perché proprio 21 giorni? 21 perché avevo già letto in passato che sono i giorni che servono per cambiare un'abitudine, non solo alimentare ma anche per altre cose, quindi smettere di fumare, cercare, non so, di andare a correre, andare a camminare tutti i giorni. Se si fa per 21 giorni è il corpo che dopo chiederà più frutta, più verdure. Come ti spieghi tutto questo protagonismo in cucina? Persone anche come me, diciamo, abbastanza mediocri in cucina, si sono messe a cucinare. Io stessa ho fatto fotografie ai miei piatti, le ho postate assieme a centinaia, migliaia di altre foto. Sono tante le donne che mi scrivono dicendo che non hanno mai amato cucinare e invece nel provare a mangiare senza cibi animali scoprono il piacere della cucina. Questo fa pensare come spesso non è che non si ami cucinare, ma non si ami cucinare degli animali morti fondamentalmente. E nel passaggio a questa cucina che è così bella, colorata, perché cosa c'è di più colorato della verdura, della frutta, dei cereali, e fa proprio venire voglia di cucinare. Trovo molto serio da parte tua avere coinvolto anche dei nutrizionisti professionisti. Certo. Troppa disinformazione su questa alimentazione e tante domande dove si trovino le proteine nei cibi vegetali e altre piccole cose che dovremmo tutte avere come l'ABC. La nutrizionista Denise Filippin di Genova, biologa, ogni settimana anche di più dedica molte ore a rispondere alle domande. Sta piacendo molto anche alle donne avere questo appoggio esterno ufficiale di una nutrizionista nel gruppo. Aida, tu sei anche autrice di due libri, vorrei capire se è da questi che hai tratto le ricette dei 21 giorni nell'Eden. Le ricette che io ho postato nei 21 giorni sono tratte dalla dieta di Eva, che non è in sé un ricettario, però contiene un centinaio di ricette in fondo, molto molto semplici. Oppure ho fatto un piccolo ricettario, si chiama Le Tentazioni di Eva, ed è anche in formato ebook e PDF, quindi costa anche meno, se mai consiglio quello per chi fosse interessato solo proprio all'aspetto delle ricette. Aida Vittoria Eltanin, restiamo animali? Restiamo animali. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. La storia dell'animalismo e del vegetarismo, quando ancora neppure si chiamavano così, è piena di personaggi straordinari, di formidabili riformatori sociali, che quindi guardavano alla propria scelta alimentare, alla propria attenzione verso gli altri animali come a una filosofia, a un modo di essere, a un progetto di trasformazione sociale e politica. Uno di questi personaggi è sicuramente Élisée Reclus, del quale oggi vogliamo parlarvi attraverso la lettura di un brano, di un suo intervento, tratto dalla sua copiosa opera pubblicistica. Ma prima, qualche breve cenno sulla sua figura. Élisée Reclus è stato un famoso geografo dell'Ottocento, è vissuto fra il 1830 e il 1905, nato in Francia ed è morto in Belgio. Di se stesso diceva: «Sono un geografo, ma anarchico». Fu un grande geografo perché viaggiò il mondo, come pochi al suo tempo potevano fare, ed aveva una straordinaria attitudine alla scrittura. Il suo viaggiare in realtà era legato anche al suo impegno politico, perché cominciò a percorrere il mondo da esiliato. Una prima volta fu espulso dalla Francia nel 1851 per dei moti di ribellione che ci furono a quel tempo. Si rifugiò dapprima in Inghilterra e in Irlanda e poi ebbe occasione di arrivare fino agli Stati Uniti. Visse a Nouvelle-Orléans e lì scoprì la durissima realtà dello schiavismo, che diede sicuramente impulso alla sua visione politica, sfociata poi nell'anarchismo. Visitò anche alcuni paesi del Sud America, cominciò a scriverne e l'editore Hachette alla fine lo mise sotto contratto per la redazione delle sue famosissime guide. Un'altra condanna Reclus la ebbe per la sua adesione alla Comune di Parigi nel 1871. Reclus partecipò a quel moto straordinario di ribellione, fu volontario della Guardia Nazionale e alla sconfitta della Comune subì la condanna alla deportazione in Nuova Caledonia. Una condanna terribile perché ritrovarsi in quell'isola oceanica voleva dire essere escluso dalla vita sociale, familiare, politica del proprio paese, della propria epoca. Per Reclus, che a quel tempo era però già un geografo molto conosciuto, si mobilitò un gran numero di scienziati, di suoi colleghi geografi, fra questi sembra anche Charles Darwin, e così il governo commutò la pena nell'esilio. A quel punto Reclus si trovò nuovamente costretto a lasciare la Francia, riparò in Svizzera, a Lugano, che era in quell'epoca la patria degli anarchici, e qui basta ricordare la canzone italiana Addio Lugano Bella. Ricominciò così a viaggiare, a scrivere. La sua opera principale è La nuova geografia universale in 19 volumi e poi L'uomo e la terra in 6 volumi che condensa la sua visione di geografia sociale. Reclus fu anche un pensatore e attivista anarchico, conobbe Bakunin e da lui si deve l'accezione positiva del termine anarchia come un progetto sociale, politico. La sua definizione celebre era questa: nostro destino è di arrivare a quello stato di perfezione ideale in cui le nazioni non avranno più bisogno di essere sotto la tutela di un governo o di un'altra nazione. È l'assenza di governo, è l'anarchia, la più alta espressione di ordine. Reclus fu un innovatore anche come geografo, concepiva l'intervento dell'uomo sulla natura come legittimo ma condizionato a precise regole d'ordine morale, sociale, politico. Fu un sostenitore del nudismo e rifiutò precocemente l'alimentazione carnivora. Diceva di sé di essere un légumiste, un termine ormai desueto e che potremmo tradurre con vegetariano o più probabilmente con vegano per rifarsi alla terminologia contemporanea, visto che Reclus si riferiva a un'alimentazione d'origine vegetale. Il brano che vi proponiamo è tratto da una raccolta di suoi scritti pubblicata dall'editore Eleutera sotto il titolo Natura e Società, scritti di geografia sovversiva. Si tratta di un articolo pubblicato nel 1901 sotto il titolo La riforma alimentare. Abbiamo scelto un brano nel quale Reclus collega l'alimentazione carnivora, la sorte riservata agli animali che vengono usati e massacrati per l'alimentazione umana, con la guerra. Una forte impressione della mia infanzia è l'aver assistito a uno di questi drammi rusticani. La sgozzatura di un maiale eseguita da una piccola folla insorta contro una mia generosa e vecchia prozia, che non voleva consentire l'uccisione del suo pingue amico. A forza la piccola folla del villaggio era entrata nel recinto dei maiali. A forza aveva trascinato la bestia nel rustico mattatoio dove l'attendeva l'apparato per la sgozzatura. Mentre la sfortunata donna, accasciata su uno sgabello, piangeva lacrime silenziose. Stavo al suo fianco, vedevo queste lacrime e non sapevo se dovevo impietosirmi per il suo dolore o credere, insieme alla folla, che la sgozzatura del maiale fosse giusta, voluta dal buon senso, così come dalla sorte. Ci si meraviglia di leggere sui giornali che tutte le atrocità della guerra in Cina siano non un brutto sogno, ma una triste realtà. Com'è possibile che uomini che hanno avuto la fortuna di essere accarezzati dalle loro madri e di ascoltare a scuola parole di giustizia e di bontà, come può accadere che queste belve dal volto umano provino piacere alle gare dei cinesi fra loro per i vestiti e per i codini e a gettarli nel fiume? Come può succedere che diano il colpo di grazia ai feriti e che facciano scavare le proprie fosse ai prigionieri prima di fucilarli? Sono persone che ci assomigliano, che studiano e leggono come noi, che hanno fratelli, amici, una moglie o una fidanzata. Prima o poi siamo destinati ad incontrarli, a stringere loro la mano senza trovarvi traccia del sangue versato. Ma non c'è forse una diretta relazione di causa ed effetto fra l'alimentazione di questi carnefici che si proclamano civilizzatori ed i loro atti feroci? Anch'essi si sono abituati a esaltare la carne grondante di sangue come portatrice di salute, di forza e di intelligenza. Anch'essi entrano senza disgusto nelle macellerie dove si scivola sul pavimento rossastro e si respira l'odore dolciastro del sangue. C'è dunque una differenza così grande fra il cadavere di un bue e quello di un uomo? Le membra tagliate, le viscere mischiate dell'uno e dell'altro si assomigliano molto. L'abbattimento del primo facilita l'uccisione del secondo, soprattutto quando risuona l'ordine del capo e si sentono di lontano le parole del Signore incoronato: siate implacabili. Non è una digressione ricordare gli orrori della guerra a proposito dei massacri di bestiame e dei banchetti per carnivori. Il regime alimentare corrisponde ai costumi degli individui. Sangue chiama sangue. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Riprendiamo il filo del discorso e torniamo ai 21 giorni nell'Eden, il percorso gastronomico culinario ideato da Ida Vittoria Eltanin che sta veganizzando ben 6.000 persone che non erano già vegane. tra gli eventi accessori dei 21 giorni nell'Eden ci sono anche alcune gare. Una di queste consiste nel veganizzare una ricetta tipicamente non vegana. Per il pasto gentile di questa settimana abbiamo raggiunto Paola Allievi, 26 anni, che vive nella provincia di Milano e che ha vinto il premio sulla veganizzazione dei chocolate chip cookies, tipici biscotti anglosassoni con le gocce di cioccolata dall'apparenza estremamente grassa, golosa e unta. Io sono tendenzialmente vegetariana, quindi ho detto perché no provare a fare questa sfida di questi 21 giorni eliminando anche ulteriormente i prodotti di origine animale. È una sfida personale più che altro, ho voluto provare. Come sta andando? Sta andando molto bene, non riesco a seguire sempre il menù alla lettera, però insomma mi sto dilettando in cucina, sto scoprendo nuove ricette, nuovi ingredienti e devo dire che sta andando molto bene. Tu hai vinto il primo premio per avere veganizzato una ricetta anche un po' complicata. Da sempre mi piace cucinare, soprattutto mi piace cucinare i dolci. Con pochi semplici ingredienti sono riuscita comunque a fare dei biscotti che a mio parere, ma anche diciamo della mia famiglia e dei miei amici, sono venuti veramente buonissimi. Anzi, devo dire che questi cookies li ho provati a fare con ricette tradizionali e non ho mai trovato una ricetta che mi soddisfacesse al 100% e questa volta incredibilmente sono usciti buonissimi, non so neanche io quasi come ho fatto, però davvero, davvero buoni. Ho cercato comunque su internet, poi ho messo insieme un po' gli ingredienti anche che avevo io in casa. Tra l'altro hai fatto una foto bellissima di questo tuo capolavoro, questa foto rendeva perfettamente l'idea della golosità e dell'untuosità di questi biscottoni. Non ci resta altro che farci venire l'acquolina in bocca, quindi carta e penna e scriviamoci un po' la ricetta di Paola Allievi. Innanzitutto una ricetta semplicissima, nel senso che si sporcano pochissimi attrezzi e la si fa veramente in 5 minuti, si accende subito il forno a 180 gradi, poi in una ciotola si mettono 60 ml di olio di semi, 90 g di zucchero di canna integrale, 30 ml di latte di soia o comunque qualsiasi altro latte, vegetale ovviamente, 150 g di farina di grano tenero, metà integrale e metà 00, mezzo cucchiaino di bicarbonato, mezzo cucchiaino di lievito, un pizzico di sale e 80 g di cioccolato, di gocce di cioccolato fondente. Si mettono tutti in una ciotola insieme, si mescola con un cucchiaio e viene un composto che è leggermente friabile. Poi lavorandolo con le mani si fanno delle palline poco più grandi di una noce, si riesce benissimo ad assemblarlo. Schiacciano leggermente le palline su una teglia ricoperta di carta da forno, facendo attenzione a lasciarle un po' distanziate perché comunque si allargano un pochino in cottura e si lasciano in forno circa 8 minuti. Quando si levano dal forno bisogna lasciarle raffreddare assolutamente sulla teglia, perché al momento sono proprio molli, poi raffreddandosi raggiungono diciamo la consistenza perfetta. Ecco, se qualcuno li preferisse un po' più croccanti basta lasciarli qualche minuto in più. 8 minuti sono giusti giusti per avere proprio il classico chocolate chip cookie, che è un po' croccante fuori, un po' più morbido all'interno, però se qualcuno li preferisse più croccanti basta lasciarli qualche minuto in più. Metteremo la ricetta di Paola Allievi dei suoi chocolate chip cookies veganizzati nel nostro blog restiamoanimali.it, perché la rivoluzione si fa anche con falce e fornello. Lo zoo di Pistoia nasce nel 1970, dal momento ospita circa 600 animali, fra rettili, volatili e mammiferi più o meno di zona, che su una superficie di 7 ettari scarsi fa una bella densità di popolazione. Perché poi come farsi mancare l'area picnic, il resto bar e il parco dedicato ai più piccoli. Nel 2013 addirittura vince il certificato di eccellenza TripAdvisor, sito su cui i genitori entusiasti ne elogiano le proprietà educative. Tra le varie attività educative, lo vogliamo ricordare, lo zoo stesso pubblicizza un'attività in cui i bambini possono usare siringhe e cerbottana per addormentare gli orsi come dei veri esploratori. Per definizione, un giardino zoologico è una struttura stabile con finalità di conservazione delle specie, invece in realtà è considerato un parco divertimenti e rientra a tutti gli effetti nella normativa degli spettacoli viaggianti. La reclusione di un animale non ha nulla di naturale né di educativo. Gli animali rinchiusi e costretti a vivere in ambienti diverso dal loro luogo di origine sviluppano problemi fisici e comportamentali. Per tutte queste ragioni e perché lo ribadiamo, noi gli animali li vogliamo liberi e che non cerchino di fregarci con le storie della conservazione delle specie, vi diamo appuntamento per domenica 18 alle ore 15 presso lo stesso zoo di Pistoia per un presidio di protesta perché noi gli animali li vogliamo liberi. Vi aspettiamo numerosi. Domenica 25 maggio al Parco delle Cascine si terrà la terza edizione della maratonina Sei Zampe. La manifestazione è organizzata dalla Proanimals Onlus, www.proanimals.it, e gode del patrocinio del Comune di Firenze. Sarà un'occasione fantastica per divertirvi con il vostro inseparabile amico, facendo anche un gesto di solidarietà per i quattro zampi più sfortunati, che sono stati abbandonati. Infatti, per iscriversi alla sgambata è necessario versare un contributo di 10 euro a coppia e tutto il ricavato andrà proprio in favore dei cani e gatti randagi. Lo scopo è anche quello di sensibilizzare le persone al rispetto degli animali, soprattutto in vista del temuto periodo estivo che si caratterizza per i numerosi abbandoni. Il percorso è tracciato all'interno del bellissimo Parco delle Cascine, lontano dal pericolo, dal traffico, e si sviluppa in due giri di 3735 metri ciascuno. È consigliabile provvedere alle iscrizioni preventivamente per evitare l'affollamento alla partenza e per consentire una migliore organizzazione dell'evento. Per iscriversi basta scaricare dal sito www.proanimals.it il modulo e poi inviarlo via email a info@proanimals.it specificando nell'oggetto della mail iscrizione a maratonina 2014. Possono ovviamente partecipare cani di ogni età, ma non sono ammesse canine in calore per evidenti problemi di ordine pubblico. Per i cani, fra virgolette, aggressivi è obbligatoria la museruola, per i padroni aggressivi un bel bavaglio. Sono previste anche aree particolari nel Prato del Quercione a ridosso del punto di partenza, dove potranno essere svolte attività di gioco ed educazione cinofila in collaborazione con istruttori della SIWA. Saranno presenti anche medici veterinari. Vi aspettiamo numerosi. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.